Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Che sentite la musica del book trailer che lancia il libro di cui vi parlo oggi. Si intitola Una mattina di ottobre, l'ha scritto l'inglese Virginia Bailey, pubblicato in Italia da Editrice Nord. Beh, innanzitutto vi dico subito che Virginia Bailey conosce perfettamente l'Italia perché ha vissuto alcuni anni a Roma, quindi abbiamo la fortuna di poterla sentire nella nostra lingua. Questo è un romanzo che ha avuto un successo incredibile in Gran Bretagna, soprattutto per il passaparola. Vi leggo alcune critiche che sono state fatte dai giornali britannici. Un romanzo coraggioso, profondo, coinvolgente, questo ha scritto il Guardian. Il Sunday Times, il racconto emozionante di un amore materno in grado di superare ogni ostacolo. L'Independent, uno sguardo originale su un periodo sempre di grande attualità. Allora, qual è il periodo di cui parliamo? Beh, parliamo del periodo, siamo negli anni della guerra, della seconda guerra mondiale, nazismo, Roma, in particolare una data, ossia il 16 ottobre del 43, quella che purtroppo viene ricordata come tristemente la data del rastrellamento del ghetto di Roma. Insomma, gli ebrei furono prelevati e mandati nei campi di concentramento. Virginia, perché lei ha deciso di ambientare questo romanzo appunto a Roma in quel periodo e raccontarci un pezzo di storia da un punto di vista molto privato, poi lo vedremo, della Shoah? Prima, perché tutte le prime volte che sono venuta a Roma stavo da mia zia che abitava nel quartiere ebreo di Roma, nel ghetto. Io ci andavo ogni anno a trovarla, non sapendo niente della storia di quel quartiere. E poi, dopo essermi laureata, facevo della ricerca post laurea nella letteratura della resistenza e studiavo all'Istituto Gramsci a Roma. Ho scoperto questo libro di Giacomo De Benedetti che si intitola 16 ottobre 1943 e che parla appunto del rastrellamento, sì, nel ghetto. Appunto del rastrellamento, e mi ha colpito. Perché mi sono reso conto del fatto che questi avvenimenti sono successi proprio lì, in quel punto dove stavo, dove abitavo, diciamo, dove bevevo il caffè la mattina e prima non ne sapevo nulla. Allora è quello che mi ha spinto a situare la mia narrativa lì. In quel posto e in quel giorno, e poi parte da quel giorno e poi va avanti naturalmente nel corso degli anni. Sì. Tutto inizia, dicevamo prima, c'è un aspetto molto privato di come viene vista la Shoah, perché lo diciamo perché tanto sono le scene iniziali, rastrellamento appunto nel ghetto di Roma, una donna e suo figlio vengono caricati su un camion per essere portati via. E questa donna scambia uno sguardo con un'altra donna che non è ebrea, che sta guardando questa scena. Che cosa succede in quel momento in cui si guardano queste donne? Allora, ho immaginato queste due donne da tutti i lati, veramente. C'è la donna ebrea sul camion che sta cercando un modo, sa di non poter scappare, però non si è sottomessa ancora al destino, sta sempre cercando qualcosa. Il suo sguardo incontra gli occhi di quest'altra, del mio personaggio, la protagonista, sì, Chiara Ravello, e si comunica questa cosa senza parole. La madre di questo bambino dice: porta via, salva mio figlio. E Chiara, senza riflettere, con l'istinto lo fa, ed è incredibilmente ci riesce. E poi c'è questo bambino di 7 anni, strappato via da tutto il suo contesto normale, dalla famiglia, di ogni cosa, e non può per convincere, dice: questo è mio nipote, naturalmente dovrà cambiare il cognome, non si potrà più chiamare Levi di cognome, perché si capirebbe subito che è ebreo. Quindi Chiara cresce Daniel come se fosse suo figlio, ma naturalmente con la consapevolezza di entrambi che non è suo figlio. Sì. Questo porta naturalmente a una serie di strappi emotivi, proprio interiori. Finché a un certo punto Daniel da grande decide di lasciare la donna che l'aveva salvato, cioè di andare via, di abbandonarla. Perché? Sì. Allora, non diventa mai veramente un rapporto facile, anche se lei lo ama come se fosse suo figlio, lo ama più di ogni altra persona nella sua vita e gli dedica veramente sua vita, ma lui, siccome non ha scelto di essere salvato, non ha scelto questa persona, non ha scelto questa vita, e in qualche modo punisce lei, ma punisce lei nel modo in cui puniamo i nostri, perché sappiamo che ci perdoneranno e ci amano lo stesso. Allora lui in qualche modo dentro di sé sa di essere amato, ma non sa accettare quest'amore per molto tempo e si ribelle. È l'unico modo che trova di ribellarsi e di farsi male. Ad un certo punto lui svanisce anche perché lei dice basta. Con l'aiuto di suoi amici lei dice basta, non puoi più comportarti così, non puoi più prendermi in giro così, perché veramente... Ecco, io trovo che questo sia l'aspetto più originale, più interessante del suo romanzo, perché sarebbe stato facile creare una storia dove una donna ebrea dà a suo figlio per farlo salvare, il figlio sì. È grato a chi l'ha salvato, insomma finisce diciamo quasi in bellezza. Invece ha avuto la capacità di analizzare i turbamenti e i contrasti che in realtà sono nati in questo rapporto fra Chiara e diciamo questo figlio adottivo. Sì. Questo è vero, ma poi c'è anche una verità che non è mai così semplice nel rapporto fra una madre e un figlio, no? C'è sempre qualcosa di complicato. Questo è più esagerato con Daniele, ovviamente, ma è anche normale. Forse lo prende più a lungo, ma in essenza lo vedo come un rapporto fra madre e figlio, soltanto che quel figlio è arrivato ad un punto dove per essere buona madre deve dire basta, ma e poi ne soffre. Ecco, io l'ho chiamato Daniel, chissà perché, forse perché pensando a lei in inglese, invece giustamente nel libro è Daniele, perché poi appunto, è tutto ambientato in Italia, Roma, sì. Eccetera. Possiamo anche anticipare, perché lo si fa già nella quarta di copertina, che a un certo punto Chiara si troverà di fronte quella che dichiara essere la figlia di Daniele, e questo naturalmente la porta di nuovo a un grandissimo tumulto interiore, perché insomma deve riaprire delle vecchie ferite, deve analizzare se stessa e deve capire soprattutto se quello che ha fatto è stato giusto o sbagliato. Sì, Chiara la trovo molto adetta ai turbamenti interiori, si chiede sempre è bello quello che ho fatto bene o no. E arriva questa ragazzina, 16 anni, britannica, dicendo oh, dov'è mio padre? E lei deve affrontare di nuovo, ma in un modo diverso e direi più bello, quello che ha fatto. Maria, quella britannica, la aiuta a fare quello. Questo suo romanzo, Una mattina di ottobre, dicevamo ha avuto un grande successo in Gran Bretagna, è stato venduto anche in molti paesi del mondo, insomma quindi un successo internazionale, un successo che è nato all'inizio dal passaparola. Secondo lei i suoi lettori da che cosa sono stati colpiti? Capisco che per uno scrittore è difficile immaginare, però insomma nel momento in cui si scrive si cerca un legame, un rapporto con il lettore, quindi si sarà fatta un'idea. Ok, mi sono fatta un'idea, non so se è veramente l'idea giusta, ma secondo me quando stavo scrivendo, ad un certo punto mi sono reso conto del fatto che io ci credevo completamente in questo mondo che stavo descrivendo. Allora forse è così che per il lettore, la lettrice, quando inizia capisce subito che è un mondo intero lì dentro e io ho aperto le porte e può entrare. Spero che sia così, almeno, e che che io, Virginia Bailey, non ci sto. Spero che ho presento una cosa fatta e voi altri, voi lettori, lettrici del mondo, ci potete entrare. Quindi insomma c'è come una sorta di empatia, insomma, di rapporto immediato. Tra l'altro questo è il suo secondo libro, sì. Quindi è già al suo secondo romanzo, ha avuto già esperienza di contatti con i lettori e così via. Quindi crede che sia proprio questa forma di riconoscersi, di poter entrare nella storia? Sì, penso di sì. Per me come lettrice, se posso fidarmi della sostanza del mondo creato, ci posso perdermi ma anche trovarmi. Questa è la cosa più bella. Tutta questa storia, questa trama che è di fiction, di fantasia, insomma, prende spunto da un episodio vero, appunto il rastrellamento del ghetto di Roma, ma è una storia di fiction. Nasce da uno sguardo, da quella che è una coincidenza, due donne che incrociano appunto i loro sguardi. Quanto conta il peso delle coincidenze poi nel corso di tutta la narrazione di questa storia? Bella domanda, non ci avevo pensato, ma forse è una cosa che mi attrae, l'idea della strada presa e della strada non presa. Se avessi fatto quella scelta, le cose sarebbero successe diversamente. Sì, quel momento, perché Chiara sta lì nel ghetto per i suoi motivi, non c'ha niente a che fare col rastrellamento, ma in qualche modo poi, no, in qualche modo, in tutti i modi definisce la sua vita. E penso che sia sempre così, perché che noi, le coincidenze, insomma, incidono, sì, molto. Sì, perché noi non siamo consci delle coincidenze che hanno avuto un effetto sulle nostre vite, ma io come scrittrice posso creare, farvi vedere quello che sta dietro alle cose. Dietro alle cose, quindi dietro alle coincidenze, insomma, alle conseguenze delle coincidenze. Sì. Grazie Virginia Bailey per essere stata con noi, lo ricordiamo, autrice di Una mattina di ottobre, che è stato pubblicato in Italia da Editrice Nord, con la traduzione di Giuseppe Maugeri. Grazie. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Te picchiare la femmineggia, gitto gitto in ciallo cori, e chiancia di dolori, ai ai, ai ai ai. Cosa c'entra Domenico Modugno con il cacciatore di libri e con i libri? Se c'entra tantissimo, almeno con il titolo di questo romanzo che si intitola La pesca dello spada, come appunto più o meno la canzone di Modugno, Lupisci spada. L'ha scritto Eugenio Tornaghi, pubblicato da 900 Editore. Questo è un giallo di quelli che, vi assicuro, vi prendono non solo pagina dopo pagina, ma proprio si ha voglia di arrivare alla fine per capire che cosa è realmente successo. Allora, La pesca dello spada è un romanzo poliziesco, un giallo, insomma, di quelli classici, ambientati però nel mondo della finanza, dell'alta finanza milanese. Vi preciso subito, si capisce tutto, anche se non siete esperti di finanza, non vi preoccupate. Eugenio Tornaghi, infatti, l'autore, tra l'altro un dirigente di un grande gruppo bancario, lo possiamo dichiarare, non è affare segreto, vero Tornaghi? No. È una cosa nota al pubblico. È una professione che svolgo alla luce del sole, sì. Tra l'altro questo non è il tuo primo romanzo, però insomma questo è quello di cui stiamo parlando adesso. Allora, dicevamo, questo è ambientato nel mondo finanziario milanese. Tutto inizia quando un banchiere che si chiama Mona di cognome, e ora capisco che tutti i veneti avranno un attimo un brivido dentro di sé, però così si chiama, così l'ha voluto chiamare, viene misteriosamente ucciso proprio all'interno di questa grande banca nel centro di Milano. Come ti è nata l'idea di far così, di far ammazzare un banchiere? No, l'idea non è tanto di far ammazzare un banchiere, quanto è di fare un giallo sulla banca. Perché? Perché un giallo è un gioco, è un modo in cui, attraverso il quale l'autore sfida il lettore a scoprire per primo chi è l'assassino, quindi un morto ci serve. Considerato anche che i tempi che corrono, mi è sembrato simpatico far morire il banchiere. Beh sì, è un periodo in cui le banche non sono particolarmente amate, ecco. L'idea era quella di, attraverso il gioco del giallo, spiegare come funzionano le banche ai lettori, senza farli annoiare.